frusta? No, la mia non è a frusta, c'ha lo stilo in acciaio, è leggera leggera, la PLC 800 della Sigma io ho. E quella lì mi pompa di brutto. E non è pesante come la 2001 per esempio, quella è pesantissima. Dice che gliel'è caduta attorno a Gianni, stava dicendo. L'ho sentito. E evidentemente, come qualcuno ha detto, o corre troppo oppure c'era anche molto vento, perché io uso la base magnetica e l'antenna mia è una Midland S9 Plus che è alta 1,5 metri e insomma non è pesante, però a volte vado anche a 130, 140 mi capita e non si è mai staccata, non ho avuto mai problemi. Ma la 2001 è troppo pesante, io penso. Capito? Lui per andare bene con quella antenna lì dovrebbe mettere quella base magnetica a tre basi magnetiche, quella con tre basi magnetiche, quella dovrebbe tenerla forte, perché è fatta per antenne impegnative come quella, tipo quelle radioamatoriali. Ho capito, tre calamite distinte, sì, l'avevo vista su qualche sito, navigando, cercando e curiosando attrezzature varie. Sì, quella evidentemente fa una bella forza e quindi più è ancorata bene, più c'è la base magnetica estesa e meglio regge. Riprendi Gianni? E questa volta mi ha fatto anche danno, mi ha ammaccato anche la macchina graffiata, sono un po' dispiaciuto, adesso l'ho tutta ripristinata, ho perso la parte di sotto, la gomma di sotto, l'ho rifatta e poi l'ho tutta quanta riverniciata, sto finendo, ho finito un'oretta fa di fare tutto. Allora qua dice, secondo il regolamento europeo, se subissi un ritardo superiore alle 3 ore o se il tuo volo viene cancellato, potresti avere un diritto ad un risarcimento dai 250 ai 600 euro a seconda della destinazione. Sì, ti sentiamo, Savé. Natalino ti sento bene. Che antenna stai usando che la guardo, Savé, su internet? Ciambrecchia. Dove sei, Savé? Un po' ti sei abbassato, è un bel po'. Ora ti ascolto, avanti il break. Ciao Brunetto. Ciao Bruno. Ciao. A Bruno lo sento bassissimo, Non lo so. C'è l'antenna dentro casa. Ma aspetta, no, avevo dei dubbi, perché voi mi ascolto bene. E tu mi avete dato un cavo, no? Siamo casini. Ha detto Bruno che c'è un'antenna nel cutiacchino. Ah, è ok, dai. Ma sei al monte, Bruno? È vero. Sì, adesso sono riuscito ad atterrizzare, Sì, sei toccato da 5 alla 9.30. Esagerato. Qua sono a Piazza Università, come mi ascoltate, cambio? 9.30, Savi. L'antenna è una bomba, esatto. 9.25 qua. Ora in campo, la sera passano 4.6, un centinaio di metri, il Presidente, la vettura, cambio. Fogello che si avvio, ma sgancia attacca. Capito? Oh, te lo giuro Luca, che mi esce le luci, già adesso mi blocco sto casa tua dopo. Mi devo entrare al supermercato dopo, quando so sto casa tua esci. Controlla se c'è allinearone, Luca. No, vabbè, come trovo poco d'ombra, un po' se ne scende, ma poi riprende in picchiata. No, vabbè, la terra. Ma quanto è alta? Mezzo metro, quanto è? Ne si di dietro che la uso per il gommone, figurati. Non ho manco attaccato la cenicica e attaccando la macchina. Fatti un conto. Va benissimo, la grande. Ma dici come mettete un veicolare? Vabbè, provvisoriamente va giù lì. Se ne fai male vuoi nuda, è omologato e tutto. Ah, su sì. No, vabbè, non so vuoi tenere andare avari. Per la comodità non so se ti viene bene. Effettivamente adesso il buio non mi vedono, ma se si di giorno cazzo mi vede le urbanacchine in mano. Sì, stanno parlando. Che avanti, chi è che vuole entrare? Sì, c'è fondo scala qua. Ciao Bru! Comunque se sempre c'è da bene, dai. Dovessi mettere quel cavo 58, però però è 52 proprio, cioè le, cosa si chiama, 58 U, che rimane leggermente più grosso. Io qualche metro di quello ce l'ho, ed è buono. Adesso lo sento anch'io a Bruno, buonasera, sperando che mi ascolti. Da dove vuoi di Bruno? È in macchina a Saverio. Io ti ho detto Bruno, io cavo ce l'ho, perché lo do, non c'è problema, fatene pure. Sant'Antonio, se mi niente, ti ho fatto vedere il mio numero di telefono, mi chiami e te lo do, non c'è problema. Bruno! Cappa avanti lui. Tony, dove si trova Bruno? Bruno si trova, se lo vado adatto, più o meno al chilometro, dai. Ah, ok, dai. Ah, ma là c'è un attennino, io sono qua a Porta Sant'Antonio. Diciamo che lo sento forte forte, Sì, c'è un attennino, sto provando. Ok, dai. Luca, ripeto. Sono andato a ritirarmi il padellone col fornellone che avevo fatto una cecciata un po' di giorni fa, ed era rimasto di lì, nel posto dove l'avevo fatta, c'erano 25 persone a mangiare. Cazzo, ma con la vada a Milano, paca e dai, gente randaggia, cazzo. E la gente via di Magna mi hanno collaborato. Gianni? Poi dai, saluta Bruno là che è entrato, non l'ho salutato. Ciao Bruno. Sì Bruno, ora ti sento bene, qua sono al semaforo del Ponticello di Viale Sicilia. Sì, ma la bufala va benissimo perché io ce l'ho a casa e ti posso garantire che in estate collego con diversi posti, al di fuori dell'Italia anche, in diversi stati, ma il problema è la posizione, sicuramente non ce l'è una posizione ideale, perché la bufala comunque va bene. Sì, ma non ti fa salire il proprietario della moto, dove ce l'ha? Tu una volta che la piazzi ben messa, la vulcanizzi bene e non mi devi piazzare panni. Perché io quando ho piazzato l'antenna alla Mantova, l'ho vulcanizzata a 12 anni c'è stata, poi l'ho riscesa per ripristinarla. L'abbiamo rifatto il radiale e cose perché c'erano troncati tutto quanto e poi l'ho rimessa, era come se fosse nuova. Già, secondo me l'ideale se la smonti ogni anno, ogni primavera ti dura una vita. La smonti, la pulisci e la ripiazzi, ma se stai anni e anni poi si ossida, come Gesù Cristo a pulirla, non ce la fai Esagerato Luca, ogni anno. Se è vulcanizzata e gli hai messo anche c'è quella specie di grasso, di patina, non gliene fa formare di ossido, puoi stare anche anni, basta che la devi isolare bene in tutte le sue giunture. E puoi stare anni, Luca lì, fidati. Vabbè, comunque. Se tu la ripristini, io ero anni e anni, non l'ho toccato, infatti Fabrizio quando gliel'ho portata cioè, sul caldo, cioè tu pensa che il palo che ne stava me l'ha spaccata proprio la base, non si poteva fare niente, dice io la puoi staccare, ma cosa? Era già spaccato, infatti mi hai fatto tutto il blocco nuovo, e il palo che c'è adesso è in coso, in come si chiama? Non in acciaio, in zingato, ecco, non penso che si rovini quel palo, boh. L'ho preso da Bricoman, c'è tutto zingato, poi non lo so. E niente, tutta ripristinata, tutta. Che poi se non mai c'è la volgima ci ha messo quel qualcosa che riscalda e si distringe, quello lì. E anche io non l'ho scesa, cioè me l'hanno scesa, me l'hanno tutta spaccata, e l'ho tutta rifatta, l'ho anche provata, testata in campagna, e c'era Claudio Sparviero, c'era Pomponio, insomma c'era anche Gianni, e ce l'avevo in terra in campagna, a Giacumora, e a Sassari arrivavo, sono arrivato 9:10 Luca, con l'antenna in terra in un fosso. Sì, ma ci credo, dipende da come la piazza, la mia c'era a posto per il momento. Penso che farà altri 2-3 anni, boh, che lo sa. Diciamo la terra ha i suoi anni, Diciamo che l'ha un po' messa male. L'unico punto buono buono è dove c'era il vulcanizzante, dove stringere il radiale, lì era ancora originale, proprio il cosa originale c'era, poi del resto ovviamente era un po' ossidata. È stata tutta pulita con il fanculo, aspetta, con il la come si chiama l'acciaio, aveva già trovata nuova l'antenna, poi la vista anche Gianni l'aveva trovata nuova anche lui, già era a posto, però l'unico problema che ha, se cosa è, che ho dovuto tirare molto la molla per fare scendere stazionale, se no non scendevano. Vabbè, vuole registrata, già lo sai quando la piazzi, ma comunque le manto va a durare una vita, se tu le pulisci, le fai, anche la mia l'avevamo fatta scesa con Fabrizio e non riusciva, non si staccava, ha dovuto dare colpi di martello, allargarla col cacciavite, insomma, e abbiamo dovuto smontarla, ci ha dato un po' di mattà. Gamba, sta curiandoli, magari chiamato a te te la smontavi tu. Perché io non c'ero, pure c'era, un paio di volte mi aveva detto, se ne ha smontato quella antenna, guarda che si stanno lamentando. Adesso io già vengo, ma con calma me la smonto. Adesso quello lì ha preso per fare i miniette, ha chiamato quelli di via Montello, li ha fatti venire, gli hanno detto, no, guardi che qua non smonta nulla, qua bisogna tagliare. Non so come, perché non si è smontata, non l'ho sconsigliato. E vabbè, fate quello che dovete fare. Vai la bucciariccio, cazzo, mi hanno imbarrato tutta l'antenna. Magari sapevi che riusciva a smontarla, però piano, con calma, con i prodotti giusti riusciva a smontarla. E la presa, proprio la sedina, a me. No, non l'ho chiuso, là non c'è bisogno, dai. Sì, qua vicino. No, non sbatte, è fondo scala, ma non sbatte, dai. Aspetta che prendo la carabina. Avanti, tu. Fattori le mani di cioccolato. Avanti, prova. Questo che cos'è? Cappa, fai. Tanto facciamo girare la ruota. Avanti, Luca, poi fai girare. Adesso lo ascolto bene a Bruno. Casino, vabbè, comunque. Queste antenne purtroppo hanno una vita non breve, ma già durano. Ma se ne avevo preso una già che l'abbandonate a quelle case di ragazze di Renda, che è riuscito poi a salire, poi vabbè, era un'antenna ormai troppo ossidata, troppo. L'ho buttata giù, pensa, con il palo e tutto, perché il palo non smontava con un capo. Se riuscivo a recuperarla, comunque l'avevo piazzata qua a casa, ma non rendeva. Assolutamente. E già me lo ricordo, quella di Tore. Ehi, avanti. Sono rientrato. Guarda, se questa è diversa, quella così decido quale usare come radio, dai. A me mi sembrano simili, però l'altra mi sembra migliore. Qua mi hanno cambiato il microfono, mi hanno portato il microfono da poco. Allora, scarica il segnale, non è stabile, quindi scala il segnale. L'ultima volta, mentre parlavo, si passava il segnale, poi si tornava a salire. No, questa... Invece Bruno, scusa, sono Carlo, ciao, prima ho visto il tuo segnale, era 8, con questa prima avevi l'Intec, adesso hai messo lo Zodiac e sei 9 pieno, la radio, diciamo una radio 4, la sento un po' bassina, però magari può essere il microfono diverso rispetto all'altro, però il segnale mi sembra un pochettino più alto. Ok, grazie. Questo non è il microfono che si pare, da poco c'era un caso che si sentava e l'ho portato a controllare la nostra e lui ha deciso di cambiare le zone al microfono per non stare a cambiare il campo. E ho comprato anche un grafo di casa che non ho provato, quindi io non piace. Ok, riprendi già. No, Gianni, aspetta. Gianni. Allora, registrati questa modulazione un attimino e ti faccio passaggio due minuti e ti faccio un altro passaggio, invece sei uguale. No, ti stiamo aspettando. No, vabbè, qua Carlo, qua arriva sempre 9.30 perché a fianco a casa si vedono le antenne. Lui è al chilometro, io sono nella zona di Vannizza. Quindi ti puoi immaginare. Sì, qua che mi arriva a fondo scala sei tu, Luca si sente lo stesso, fondo scala radio Super 5 come la tua, Roberto Quadrato diciamo mi arriva forte, Claudio, anche Marco, ieri andando ad Alghero praticamente ho parlato con Marco, non l'ho perso un attimo, da Sassari sino all'aeroporto, anche con Roberto ho parlato, Roberto addirittura mi sentiva dall'aeroporto con Radio 5 Santiago ieri, con l'antenna diciamo quella più grande. Luca, avanti. Ora un po', c'è differenza? Ma a me mi sembra lo stesso. Ah, ok, da. Questa qua è ovviamente più forte. Questo è il Typhoon. Aggiustatola. No, non ce ne fa niente, c'era lo Smith un po' che non andava, però sei a posto. Ora in ricezione ai segnali forti me li sento strani, boh. No, non avevi detto che non accendeva, io mi ricordo così. Sì, accendeva, non aveva trasmissione. Ma sai perché non aveva trasmissione? Perché ce l'avevo portato su FM. Scendi di gabbo, boh, smontendo il vene, controllando, l'ho anche aperto per vedere se c'era qualcosa che non andava. E invece poi mi sono accorto che era un FM, va, per carità. Chi è rimasto? Tonino, avanti. Da te, Carlo, uguale, sì, salve. Questo è il Typhoon, uguale all'altro, sì, confermi. Sì, va bene. E adesso lo faccio andare un po', là, perché era sempre fermo questa cosa. Fuga. Da te, da a casa, farlo scaldare un po'. Non conviene già lasciarlo un po' acceso, farlo andare. Certo, per avere sempre i condensatori carichi, Lucaria. Chiama di positivo, frate, che Carlo, il tuo, a proposito, sistemato. No, ancora no, sto usando quello piccolo adesso, e quello lo dovrò portare a Borore quando ho capito da quelle parti. No, ho capito, Ehi. Non si accende più, non si accende più. Ho provato anche ad alimentarlo con un alimentatore piccolo, proprio da 12 volt, ho detto vediamo magari se dà qualche minimo di corrente, passa dappertutto nei circuiti, c'è continuità eccetera, però non so cosa sia, o si è rotto il tasto d'accensione, però è complicato, ho capito, per me da riparare, anche perché ci vorrebbe o il pezzo nuovo, quindi da risaldarlo, oppure se secondo cosa mi dice Albino quando glielo porterò, se mi dice che si può aggiustare bene, se no pazienza, si butta e ne prenderò un altro. No, perché buttalo? Lo usi per pezzi, come ti da parte non lo puoi usare per pezzi. Sì, magari qualche pezzo, tipo il microfono è buono, i tasti, insomma alcune cose possono in effetti servire, se lo dovessi trovare uguale, perché è uscito fuori produzione, quello è, mi sa che non lo fanno più. Come si chiama? Albrecht 5890EU. Albrecht, è tedesco, è della Alan Albrecht, è praticamente è una radio che diciamo è per gli 11 metri, ma la vendono pure per i 10 e i 12, capito? La mia era quella per 11, è andata bene per un paio d'anni e poi ha fatto puff come tutte le cose, però magari può dipendere dal fatto che spesso sta mancando la corrente da queste parti di casa mia e ci sono sbalzi continui di tensione, può avere magari provocato quello il fattaccio, dai. È partita qualche resistenza. Ma così che è? Qua c'è CB Albrecht AE 5090 più microfono intelligente dual mic. No, vabbè, forse c'è anche il dual mic, cioè, costa 388 euro. Sono arrivato alla Maison, ora qua spengo, magari collego dopo a casa, ok? Sì, a Saverio, siamo qua, dai. Ricevuto Saverio. Ciao, buona questi greca. Comunque mi confermi, Albrecht AE 5090 EU? Sì, esatto, Luca, è quello. Sì, già c'è. Qua c'è il compreso di dual mic, cosa te ne fai? Cioè, scusa, dual mic serve per usarlo su, come si chiama? Su acustica, tu quanto l'avevi pagato, Carlo? Come? Quanto l'avevi pagato? Io l'avevo preso 200 e qualcosina, 230. Farda, 26, 32? Sì, esatto. Per quello. No, è carina, da. Poi a me era digitali, poco mi piacciono. A me è analogiche. Io ormai con quella mi ero abituato, capito? Anche perché poi c'ha la, diciamo, quando giri la manopola va in continuo, se vuoi metti la scansione, ti fa tutta la scansione, capito? Oppure c'è anche lo shift, capito? E puoi fare quello che vuoi perché ha funzione anche di radio amatoriale in HF. Qua c'è scritto, al momento non sappiamo quando l'articolo sarà di nuovo disponibile, per il momento è esaurito. Esatto, sì, perché praticamente ne hanno venduto talmente tante che adesso non si trovano più i pezzi che sicuramente li importavano da Hong Kong con la questione pandemia, guerre, mancano i componenti e non stanno facendo più la produzione, l'hanno bloccata perché scorte in magazzino non hanno niente. Si trova sul mercato americano ma ti costa roba di $400, poi saranno circa 350 euro, capito, ma è troppo cara quella. Poi la ordine, ti devi pagare pure i dazi doganali, insomma un casino, magari ci spendi 500 euro e non è cosa da fare. Oh Carlo, deve essere partito il diodo se non accende. Fa passare la corrente in un senso solo. Spero che sia così, Natalie, mi auguro che sia così come dici tu, che sia roba da poco, perché se riesco a rimetterla a posto riutilizzo quella, solo che a Sassari non c'è nessuno, capito? Quindi è quando andrò dalle parti di Aldino, che sono di passaggio, allora l'ho contatto magari il giorno prima e gliela lascio, poi lui quando l'aggiusta con calma, se riesce, mi chiama, passo e la ritiro. Infatti quello sto pensando io, sono del diodo, perché la corrente arriva comunque, perché ha un senso come detto Natalino, ha solo un senso, invece se fai due sensi di segnala, vabbè, bisogna attaccarlo il diodo e ne accorgi, perché c'ha una polarità, invece se te lo segna entrambe le parti vuol dire che è bruciato. E infatti il diodo fa passare la corrente in un senso solo, dovrebbe essere quello lì che si è bruciato. Ma si può dire anche il tastino, ma cos'è la manopola o il tastino proprio c'ha per accenderlo? No, la manopola, no, lo scatto lo fa normalmente, si sente che funziona e poi praticamente si è spenta mentre io stavo parlando, capito? Quindi la radio si era accesa regolarmente, mentre stavo parlando, puff, si è spento tutto. Allora è qualche diodo, non penso che sia grave il danno. E sicuramente deve essere il diodo di alimentazione e non che si è bruciato, magari è stato uno sbalzo di tensione che ha bruciato il diodo, capito? Sicuramente è quello, il diodo di alimentazione. Vedremo un po'. Poco fa non ho afferrato di che tipo di antenna è quella che sta usando Saverio in macchina, non ho sentito perché ero alle prese con un CIS. E infatti lo volevo sapere pure io, forse lo sa Gianni. Aspetta, la giro, ce l'ho la foto, caro, te la giro su WhatsApp, aspetta, l'ho già mandata, boh. Mandala anche a me. Ehi, a Luca. Anche a me mandala, Luca. È bella quella di Sovvideo, c'ha la bobina trasparente che si vede in trasparenza tutto l'avvolgimento. Eh sì, perché se rende così è poi da provare anche un po' sulla lunga distanza. Quello è che non sappiamo su lunga distanza com'è. Se funziona così io penso che il massimo anche in lunga distanza. Perché io anche dove non dovrebbe prendere lo sentivo, quindi vuol dire l'antenna rende. L'ho mandata. Sì, ho visto Luca, ho visto di quale tipo si tratta e più o meno dovrebbe avere il peso come quella che sto usando io, è completamente diversa, però l'attacco è diverso, la mia c'ha proprio l'attacco con la vite a farfalla, capito? Invece questa mi sa che si avvitta. Sì, questa da avvittare, esatto. E quindi ci vuole la base magnetica con quell'attacco lì, è bellina comunque, si vede tutta la cosa caricata, poi sì, bella antenna. No, la vedono completa, non la vedono senza base magnetica, è completa la base magnetica quando la cubi. Ah, buono allora, dopo me la cerco. E ma il fatto che non so la marca, non so cosa cercare. C'è la marca, si vede, Anker Elite, già la trovo, poi non ti preoccupare. Ma c'ha un numero, non mi ricordo, c'ha un numero. Ok, più o meno la base ha le dimensioni di quella che utilizzo io, la base più o meno è come quella che uso io, però ha l'attacco diverso. State tutti guardando la foto adesso, eh? Vediamo se c'è ancora. Tonino, ci sei? Batti un colpo. Stavo dicendo, ieri sera quando sono sceso per andare a lavorare ho trovato la sorpresa, il biglietto sul vetro della macchina, e mi contatti a questo numero per il danno al paraurti, praticamente mi ha distrutto il paraurti questo qua col fuoristrada. Ecco, è stato diciamo educato e corretto, e per cui mi ha fatto già il CID, e avrò solo la rottura di scatole di portarla dal carrozziere per la sostituzione, perché mi sa che mi sostituiscono tutto il paraurti adesso. No, che te lo scatano, c'ha una pistola, lo scatano e lo buttano fuori di nuovo. Se ci vuole nuovo me lo fanno nuovo, perché è pure bucato, capito? Comunque vabbè, vedi tu. Però per praticamente per toglierlo fuori c'hanno una specie di fond, lo scaldano, lo battono da dentro e riescono a rimetterlo nel sesso come era prima, dai, poi gli danno una verniciata. Lui questo che mi ha fatto mi ha detto, tanto fanno veloci, prendono il paraurti nuovo, eccetera, se l'assicurazione me lo paga io mi faccio mettere il paraurti nuovo, anche perché me l'ha un po' svirgolato, infatti prima aderiva bene, adesso c'è una fessura, quindi l'ha anche deformato nella parte superiore dove attacca col resto della carrozzeria, quindi non è solo da tirare fuori tutto quel bozzo, ma c'è anche un buco e sembra così, è parecchio messo male, capito? Tanto paga la sua riassicurazione, a me non mi interessa niente, mi sa che la porto da Roberto, così me la faccio guardare. Ma infatti, poi Roberto conosce anche i cosi, già ti fate la fa fare in fretta. Asco, guarda a vedere se CB antenna PNI ML70, che ha l'affare che si vede la carica. Solito la tua 3009. Gianni. Si chiama Anker Elite, guarda, Anker Elite. Sì, Natali, quella che hai detto tu l'ho vista, è molto simile, ma non lo so se quella là ha lo stilo lungo e questa invece ha lo stilo attorcigliato, capito? Dovrebbe essere più o meno con quelle caratteristiche, però. E a Saverio bisogna chiederlo. Antenna CB veicolare con base magnetica, Sunker CB1. Adesso la mando a Gianni, aspetta che l'ho trovata. Trovata, Sunker Elite, antenna CB radio con kit di montaggio, base magnetica 640 cm, 4 dB in acciaio inox, trovata, 45 euro e 66 centesimi, costa. Come si chiama, Natalia? Aspetta, detta bloppia. Allora, Sunker Elite antenna CB radio con kit di montaggio, base magnetica 640 cm, 4 dB in acciaio inox e non ha l'affare, non ha quell'affare a tortiglione girato, ce l'ha dritto Carlo, Sunker Elite si chiama, antenna CB, antenna radio CB, e c'è la base magnetica e l'antenna, costa 45 euro e 76 centesimi. No, io l'ho trovata per di meno, allora Sunker, Sunker Elite CB 116, antenna con magnete, 27,83 euro. Non è quella, questa è 140 cm, 600 watt mantiene, dovrebbe avere quella Saverio, perché non è, non ha nello stilo quell'affare a tortiglione che ha quell'altra, è questa qui. Poi chiediglielo quanto l'ha pagata, questa costa 46 euro. No. Aspetta, non è rocciana, sta lì. Allora, questa qua tiene, allora, radio antenna Sunk Elite CB con magnetico base supporto 600 watt, costa 36 più 5 di spese. Ma qual è quello che c'è lo stilo nero? Perché sapete c'è quella con lo stilo nero dritto, senza avere molle al centro, eccetera. No, questa è lo stilo grigio, classico stile in acciaio. No, no, quella di Sabine è nera, è bella, ragazzi. Ormai non mi ricordo così. Ma questa qua che mi ha toccato c'ha la... come si chiama? La... è la seconda, Carlo, che mi hai mandato. Sì, la seconda dovrebbe essere quella di Saverio. Ah, ok, l'altra invece è quella che ho visto io, sì, la 100, la 75 cm, cavo RG58, RG58, poi 58. E niente, cioè, sembra un'ottima antenna. Sembrerebbe, bisogna provarla con la lunga distanza. Esatto, è questa qua, è questa con lo stilo nero, sì. Sì, non costa neanche tanto, È da 6,12. Questa qua, 115, me lo ricordo il numero, è tutto è uguale. E infatti, se è completa di base magnetica, non è neanche tanto il costo. È una caspittina, 75 un bel po'. Ma che cosa ho... Blu 75. Quello 45 è l'antenna, più l'antenna, più la base magnetica a parte. No, la base magnetica mi pare che costa 22-25 euro, se non mi ricordo. Più c'è l'antenna che costa 45 euro. Ah, ok, io forse ho guardato velocemente. Devo fare un attimo di bianco, devo completare una cosa, riprendo dopo. Dai, continuate pure, sono in ascolto. Via. Oh, Bruno, ti volevo dire che devi togliere la vernice da sotto alla base magnetica, dove va attaccata l'antenna per fare bene massa, perché io ho fatto così. Hai capito? Guarda se è verniciata, perché ci ho messo un po' di tempo a toglierla, chi non ne vuole ci sa vernice, deve lucidare sotto alla base magnetica per fare bene massa. Ok, ciao Bruno. Tutti morti? Io sono qui. Dai, una bella antenna mi sembra, una bella antenna, questa qua va anche bene per la macchina mia che è nera. Infatti, è quella lì, quella che non ha il tortiglione nello stilo, che c'ha lo stilo dritto, va bene. Per le lunghe distanze dovrebbe funzionare bene. La 115 è quella che c'ha Savio, la 115. Se si trova quella lì, mi sa che me la ordinei. Infatti. Ha fatto danno quella lì, che se dico, mi è caduta la calamità, mi ha fatto una botta, non dico grande, ma appena, ma me l'ha fatta. Era tutta la strisciata dalla capota si laggiù, come ti dici di imparare. Anche troppo pesante, chissà chi va in dubbio. Già, quella che c'hai tu è troppo pesante, come ti metti a camminare poco a poco te ne la stacca. Io ho provato anche a pulire la capota, tutte quante le ho tentate, pulire la capota prima di metterla. Adesso l'ho tutta ripristinata, che l'ho messo la gomma di sotto, l'ho rifatta con la pelle che si usa per pulire la macchina, ce l'ho presente quella nera. L'ho ritagliata tutta quanta, incollata bene, per non graffiarmi la macchina. Ma su quella base magnetica ci posso mettere, c'è anche un'antenna della Lemme, che però è lunga così ma è leggera, capito? È quella che ci aveva il pane di bombolo. Oppure la PLC 800 che è molto più leggera. La metti in quella base grande e a me non mi si è mai staccata. No, a me sì, a me altre volte. La Turbo 2001, anche l'altra che ci avevo, mi ha andata nel vetro di dietro nella session V. C'è detto un rumore. Tante ce la possa fermare la tariffa. E questa deve avvicinare e gli faccia una base magnetica, tutta. Sì, infatti. Attaccata già rimane attaccata perché c'è il campo. Sì, infatti. Adesso vediamo, adesso vediamo cosa fare. Se no me li cavo tutto gatto, buonanotte. E io ti busco una PLC 800 o quella che c'ha Saveri. E da dopo la PLC 800 non la vendono più, non la fanno più. E no, era buona anche Sigma DX oppure la Colibri, quella gialla, gialla arancione, un giallo ocra era. Te la ricordi la Colibri? E c'è la Bruno Ragano, quella lì. Quella era buona, ecco per te. E lo so. Sì, sì, colpava forte, anche la Sigma DX io l'ho avuta, e fatto il CT DX, cavolo, con loro ho parlato di guascio, dal quadrato. E io dovrei amarmi molto. E c'è anche la QSL, mi è arrivata anche la QSL. Capito. Un macello. Sono troppo pesanti questi 2001, sono fatti per il camion, capito? E vogliono piazzarsi su una staffa. Sulla base magnetica non vanno bene che sono troppo pesanti. O ti pigliavi una base magnetica di quelle a tre, con tre basi magnetiche. E quelle dovrebbero tenere un'antenna così pesante, perché è un'antenna per camion, non è anche per macchina. Ma la base magnetica va giù, va una calamità enorme, da 12, non ti dico altro. Cioè, le tre sono calamitine piccole, sono tipo piedini. Sono calamite piccole, quella che c'è è una calamita che piglia tutto, dovrebbe tenere più quella di quella tre. No, perché quella c'ha, dipende da come sono messe, capito? Chi sa, una tre va un ferro, un di andare piazzata l'antenna, e sono collegate tutte e tre. Non è gai su punto, anche io ce l'ho come la sua, non l'hai vista la mia quanto è larga la base? Io. Se è quello che cosa è, non lo so, forse il peso dell'antenna più chiaro. È l'antenna che è un bel pesante, quella che hai tu, molto pesante. Io ho la PLC 800, non pesa nulla a confronto alla tua. Grazie. Ma se ce l'ha qualcuno la PLC, mi pare che ce l'ha appena riserva la PLC 800. Quella lì funziona bene perché è leggera, e imbatte che anche la 2001, ma la 2001 gatta è troppo pesante come antenna, c'ha lo stilo grosso, lungo, molto più lungo della PLC 800, è più con carica e tutto pesa che cosa amara, confronto alla PLC 800 pesa un bel. Quello sì, quello sì, però tiene watt, tiene un bel di watt, 1500 watt tiene. Ma tu un lineare da 500 watt c'hai in macchina, con da cazzo di una frutta le watt che tieni. Se tu un lineare non ne hai, o ne hai uno da 100 o da 200, la PLC 800 li tiene, mio santo grilli. Non ne ho nulla lineare, non ne uso lineare. Quindi a te dei watt, cosa cazzo te ne frega? Non hai un lineare da 500 o no? Per usare quell'antenna lì. Quelle antenne lì vanno bene per il camion. Lo so. E vabbè. Adesso vediamo. Magari la metto solo da ferro, mi prendo una come quella di Bruno, una mini turbo per la città, e poi per quando vado fuori, poi per la città mi dico quella, devo fare un contrario. Ma ne avrei preso una piccola, quella che c'ha Bruno è bella per esempio. È corta, e non dovrebbe crearti problemi quella che c'ha Bruno. La mini turbo va benissimo, e imbatte un bel punto. E chi ti crede che già è da Bruno di comprare, l'ho detto io. Chi sei per due è un bel ragione d'antenna, anda piazzata a vista, anda piazzata. E se non vai con una cappotta, di nitrata burro la cappotta chi sei per due. E la volta che ho parcheggiato via Umberto con la station wagon, non ho stracciato 2 quarti, cazzo, toccato. sotto un albero, non me lo ricordo che c'erano gli alberi lì, che erano bassi duri, non ci ho pensato. Mi ha toccato l'albero con l'antenna che mi ha allargato il buco e allora ci ho dovuto mettere uno di quegli affari che si. Uno di quei tappi che ci mettono nel lavandino quando togli il rubinetto, cattragola mi si seccata, aspetta. Quando togli il rubinetto nel lavandino che per dire, o nel bidet che metti il misceratore e togli i due rubinetti, metti quei tappi lì e non si vede più nulla, ho messo quello lì e poi l'ho verniciato e non si vede nulla, ne ho fatto il buco da parte dove ce l'avevi tu. Io ce l'avevo addirittura, io avevo messo sotto alla cappotta un rondellone, va più buccio, ma di chi ti vedi raghi, quando ce l'avevo fissa la PLC 800. E già me lo ricordo, ce l'ho anche io il rondellone in acciaio di quelli grossi, già lo so, anche io avevo fatto così, però io c'avevo la traversina, tutto che passava lì nella cappotta, e l'avevo collegata, proprio bucata dove c'era la traversa, per quando caputti mi con la traversa lì, e l'avevo bucato quello e teneva, era bella forte. Sì, ero grido. Ma bucare adesso non mi va, dai. Se no potrei farglielo dove ce l'hai tu, fare il buco dove c'è la plafoniera e farlo passare da lì, una gattata a farlo. Ma chi te lo fa fare? Certo, la macchina è nuova, Cosa? E procuri un'antenna più piccola oppure quella di Savidio, quella lì dovrebbe essere più leggera. E quella è più corta anche, oltre sì, è leggera, è un giocattolino, poi è avvittata quella lì, è un'altra cosa, dai. È avvittata, è di quelle avvitte. E ho capito. Una lisera con Benabucani, cosa c'hai in chi vi attira la roba? Chi sa già video dovrebbe pompare forte, perché io lo sentivo bene quando era in via Turritana, tu pensa quando c'ha il campo libero a vedere se pompa. Sì, ha la carica che praticamente recupera la lunghezza, no? Ha la carica ben fatta e poi trasparente, è bello per quello perché anche l'estetica è bella. Sì, infatti quella di Sabiri è bella l'antenna. Vabbè, adesso si vedrà. Adesso mi ho ripristinato tutto quanto, sono stato roba di una mezz'oretta perché avevo graffiato tutta quanta la base, l'ho tutta riverdeciata, rifatto il fondo perché l'ho preso il gommino di sotto, l'ho fatto con la pelle nera, quella che si usa per pulire le macchine, quella pelle nera, l'ho incollata sotto, se no mi graffia la macchina. Infatti. È ritornata nuova comunque. Meglio così, tu non ti devi fidare, quando sei camminendo a puliti questa antenna, se no ti fai questo difetto. E con tutto che c'hai una base di tutto rispetto come quella che ho io, però è troppo bizzante l'antenna, chissà. E poi che ti mando il lavoro che ho fatto? Sì, già me lo posso immaginare, già non c'è bisogno che me lo mandi, no? Già lo so che sai verniciare tutto tu. Chi è? Già, devo spegnere, ciao. Ciao Natali, ci sentiamo, stammi bene. Buona serata, ciao a tutti, dai, chiudo. Ciao.